ad alta voce. Maria Pajato legge Невский проспект, la prospettiva, di Николай Васильевич Гоголь. Traduzione di Tommaso Landolfi. Piskaryov, giunto a casa, versò qualche goccia in un bicchiere d'acqua e, bevutolo, si pose a giacere. Dio, che felicità! Lei, di nuovo lei, ma oramai sotto tutt'altro aspetto. Oh, come leggiadramente siede presso la finestra di una luminosa casetta di campagna. La sua acconciatura spira quella semplicità di cui soltanto si riveste l'idea di un poeta. La pettinatura sul capo, cielo, com'è semplice questa pettinatura e come le sta bene. Un corto fichu è leggermente buttato attorno al suo collo armonioso. Tutto in lei è modesto, tutto in lei ispira un segreto, ineffabile gusto. Com'è cara la sua leggiadra andatura, com'è musicale il fruscio dei suoi passi e del suo abito dimesso, com'è bello il suo braccio serrato da un braccialetto di crine. Ella gli parla, con le lacrime agli occhi. Non mi disprezzate, io non sono affatto quella che credete. Guardatemi, guardatemi più fisso e dite, sono io capace di ciò che pensate o no, no? Possa colui che osi crederlo, possa colui. Ma si risvegliò, commosso, straziato, con le lacrime agli occhi. Meglio sarebbe se tu non esistessi affatto. Se non vivessi sulla terra, ma fossi soltanto la creatura d'un pittore ispirato, io allora non m'allontanerei mai dalla tela. Potrei guardarti eternamente e baciarti. Vivrei e respirerei di te come del più bello dei sogni e sarei allora felice. Non avrei altri desideri. Ti invocherei come l'angelo custode nel sonno e nella veglia. E ti chiederei valore quando si trattasse di rappresentare il divino e il santo. Ma invece, che orribile vita! Che utilità v'è nel fatto che essa viva? Forse che la vita d'un pazzo è piacevole ai parenti e agli amici che un giorno l'amarono? Dio, che cosa è la vita nostra? Una perenne zuffa della fantasia con la realtà. Pressappoco tali erano i pensieri che continuamente l'occupavano. Di nient'altro si dava cura. Non mangiava persino quasi nulla e con impazienza, con passione d'amante attendeva la sera e l'invocata visione. L'ininterrotta tensione della mente verso un unico oggetto prese alla fine un tale potere su tutta la sua esistenza e la sua fantasia, che l'agognata immagine gli si mostrava ormai quasi ogni giorno e sempre sotto un aspetto contrastante con la realtà, giacché i suoi pensieri erano completamente puri, come i pensieri d'un fanciullo. Attraverso queste visioni di sogno, l'oggetto medesimo di esse si purificò, in qualche maniera. E si trasfigurò. La pratica dell'oppio ancor più avvampava i suoi pensieri, e se mai vi fu uno innamorato fino all'ultimo limite della follia, d'un amore impetuoso, spaventoso, straziante, turbolento, quest'infelice era lui. Di tutte le visioni, una lo rese più felice. Egli vide il suo studio. Era tanto felice. Con tanto rapimento sedeva, tenendo fra le mani la tavolozza. E c'era anche lei. Era già sua moglie. Gli sedeva accanto, poggiando il grazioso, piccolo gomito alla spalliera della sua seggiola e guardava il suo lavoro. Nei suoi occhi languidi, stanchi, c'era il peso della felicità. Tutto nella camera aspirava il paradiso. Tutto era così luminoso, così ordinato. Dio! Ella piegava sul suo petto l'incantevole testa. Un sogno più bello non l'aveva ancora mai fatto. Si levò dopo alquanto più fresco e meno distratto del solito. Nella sua testa sorsero strani pensieri. Forse, pensava, è stata trascinata alla corruzione da chissà che involontarie e terribili circostanze. Forse i moti del suo animo la dispongono al pentimento. Forse ella stessa vorrebbe strapparsi alla sua orribile condizione. E allora, come assistere indifferenti alla sua perdita? E quando poi basterebbe tenderle la mano per salvarla dall'annegare? I suoi pensieri si spinsero anche più oltre. Nessuno mi conosce, si diceva, e nessuno ha nulla a che fare con me, né io con alcuno. Se ella mostra di pentirsi sinceramente e se muta vita, la sposerò. Io devo sposarla. E certo farò assai meglio di quei tanti che sposano le proprie governanti e spesso le creature più indegne. Ma la mia azione sarà scevra da interesse e forse anche più grande. Io renderò al mondo il suo più bell'ornamento. Avendo architettato un tal piano in consulto, egli sentì il sangue salirgli al viso. S'accostò allo specchio e restò egli stesso spaventato dalle sue guance disfatte e dal pallore del suo volto. Si vestì accuratamente, si lavò, si ravviò i capelli, indossò un frac nuovo, un elegante panciotto, si buttò sulle spalle il mantello e uscì sulla strada. Respirava l'aria pura e sentiva in cuore una freschezza, come un convalescente che uscisse per la prima volta dopo lunga malattia. Il suo cuore batteva forte quando egli raggiunse quella via in cui non aveva più messo piede dopo il fatale incontro. A lungo cercò la casa. La memoria pareva averlo tradito. Percorse due volte la strada e non sapeva davanti a quale casa fermarsi. Finalmente una gli sembrò quella che cercava. Salì in fretta la scala, bussò a una porta. La porta si aprì. E chi gli venne incontro? Il suo ideale, la sua immagine segreta, l'originale dei quadri del sogno, colei per cui egli aveva vissuto così orribilmente, fra le sofferenze, per cui aveva vissuto così dolcemente. Colei medesima gli stava davanti. Egli tremò e appena poteva reggersi sulle gambe dal languore, sorpreso da un accesso di gioia, ella gli stava davanti, ugualmente bella, sebbene i suoi occhi fossero gonfi, sebbene il pallore fosse diffuso sul suo volto, non più ormai tanto fresco, ma ella era tuttavia bella. «Ah!» esclamò ella vedendo Piškarev e fregandosi gli occhi. Erano ormai le due. «Perché siete fuggito quella volta?» Egli, all'estremo delle forze, sedette su una seggiola e la guardava. «E io mi sono svegliata appena ora. M'hanno riportata alle 7 del mattino. Ero completamente ubriaca», aggiunse con un sorriso. «O fossi tu muta e priva addirittura di lingua, anziché pronunciare di tali discorsi!» Ella gli mostrò a un tratto, come in un panorama, tutta la propria vita. Non di meno, facendo forza a se stesso, egli decise ugualmente di provare se non avrebbero avuto influenza su di lei le sue esortazioni. Fattosi coraggio, con voce tremante e al tempo stesso ardente, prese a descriverle la di lei orribile posizione. Ella lo ascoltava con un'aria attenta e con quel senso di stupore che mostriamo alla vista di qualcosa di inatteso e di strano. guardava sorridendo leggermente una sua amica che sedeva in un angolo, la quale, smesso di pulire un pettine, ascoltava anche lei con attenzione quel predicatore di nuovo genere. «È vero, sono povero», disse finalmente, dopo lunghe ed edificanti esortazioni, Piškaryov. «Ma lavoreremo, ci studieremo a gara l'un l'altro di migliorare la nostra esistenza. Non v'è nulla di più piacevole che dover tutto a se stessi. Io siederò ai miei quadri, tu, standomi accanto, ispirerai il mio lavoro. Cucirai o ti occuperai di altra faccenda donnesca e noi non mancheremo di nulla». «Ma come è possibile?» interruppe ella con una certa espressione di disprezzo. «Io non sono una lavandaia o una sartina da mettermi a lavorare». «Dio!» In queste parole si esprimeva un'intera vita bassa e spregevole, una vita dedicata tutta alla vanità e all'ozio, fedeli compagni della corruzione. «Sposate me!» intervenne sfacciatamente l'amica nell'angolo, che aveva fino allora taciuto. «Quando sarò vostra moglie, ecco come me ne starò sempre!» Ed assunse col suo squallido volto una certa aria sciocca che suscitò la più grande ilarità della bella. Oh, questo era troppo. Mancava la forza per sopportare ciò. Egli si precipitò fuori, coi sensi e i pensieri smarriti. La sua mente s'offuscò, scioccamente, senza scopo, non vedendo, udendo o sentendo nulla, errò tutto il giorno. Nessuno seppe dove o come avesse passato la notte. Solo il giorno seguente, per un suo cieco istinto, tornò a casa. Pallido, orribile in vista, coi capelli in disordine, coi segni della follia sul volto. Si chiuse nella sua camera e non lasciò entrare nessuno, non chiese nulla. Trascorsero 4 giorni e la sua porta chiusa non s'aprì neppure una volta. Passò infine una settimana e la sua porta era tuttavia chiusa. Si buttarono allora contro di essa, lo chiamarono, ma non vi fu alcuna risposta. Finalmente forzarono la porta e trovarono il suo corpo, esanime, con la gola tagliata. E lì in terra un rasoio insanguinato. Dalle mani spasmodicamente contratte e dai lineamenti spaventosamente alterati si poté concludere che la sua mano era stata mal sicura e che egli doveva aver sofferto ancora a lungo prima che la sua anima di peccatore abbandonasse il corpo. Così perì, vittima di un'insana passione, il povero Piškaryov. Buono, timido, schivo, ingenuo, come un fanciullo, che in sé recava una scintilla di talento destinata, forse, col tempo, a divampare larga e vivida. Nessuno pianse su di lui, nessuno si raccolse attorno al suo corpo inanimato, tranne l'abituale figura del commissario di quartiere e la faccia indifferente del medico giudiziario. In silenzio, senza neppure le cerimonie della religione, portarono a Ochta la sua bara. Non la seguì che un custode militare e d'altronde perché aveva bevuta troppa vodka. Neppure il tenente Piragov venne a vedere il corpo dell'infelice, al quale pure aveva concesso in vita la sua alta protezione. Del resto aveva tutt'altro a cui pensare. Era impegnato in una straordinaria vicenda e torniamo dunque a lui. Io non amo i cadaveri e i defunti e sempre m'è sgradito quando m'attraversa la strada un lungo corteggio funebre e un soldato invalido, vestito all'incirca come un cappuccino, va fiutando il suo tabacco con la sinistra visto che con la destra regge la torcia. Io sempre provo dispetto alla vista d'un ricco catafalco e di una bara ricoperta di velluto. Ma il dispetto si mescola alla tristezza quando vedo una qualunque vettura da carico trasportare la bara rossa non ricoperta da nulla di un povero che solo una mendicante raccolta a un crocicchio segue per non saper che fare. Abbiamo lasciato, se non erro, il tenente Piragoff nel punto che, congedatosi dal povero Piškarjov, partiva all'inseguimento della biondina. Questa biondina era una creatura minuta, leggera e abbastanza interessante. Essa si fermava davanti a tutti i negozi e contemplava le cinture, i fisciù, gli orecchini, i guanti e altra robuccia esposta nelle vetrine. Continuamente si girava, buttava gli occhi da tutte le parti e si voltava indietro. «Sei mia, colombella», diceva Piragoff, pieno di fiducia in se stesso, continuando il suo inseguimento e coprendosi il volto col bavero del mantello per non essere ravvisato da qualche conoscente. Ma giova qui render noto al lettore che tipo fosse il tenente Piragoff. Prima però di dire che tipo fosse il tenente Piragoff, è bene dar qualche informazione sulla società alla quale Piragoff apparteneva. Vi sono ufficiali che costituiscono a Pietroburgo una specie di classe media. A una serata, a un pranzo presso un consigliere di Stato o un consigliere attuale, il quale si conquistò il suo grado con 40 anni di fatiche, troverete sempre uno di questi cotali. Un certo numero di pallide, assolutamente incolori come Pietroburgo stessa, ragazze, di cui alcune spigate, un tavolino da tè, il pianoforte, i quattro salti in famiglia, tutto ciò appare indissolubile dalla brillante spallina che riluce sotto la lampada fra una benevolente biondina e la marsina nera di suo fratello o dell'amico di famiglia. Queste ragazze a sangue freddo è oltremodo difficile smuoverle e farle ridere. È necessaria perciò una grande arte, o per meglio dire, non averne affatto. Occorre parlare in maniera tale che il discorso non risulti troppo intelligente né troppo divertente e che sia pieno di quelle bagattelle che piacciono alle donne. E in ciò è doveroso render giustizia ai suddetti signori. Essi hanno il particolare talento di costringere al riso e all'attenzione queste incolori beltà. Esclamazioni, risa soffocate. Smettete, non vi vergognate di farmi ridere tanto. Sono spesso la loro migliore ricompensa. Nella classe superiore essi capitano di rado, o meglio, mai. Ne sono tenuti fuori da quelli che si chiamano là aristocratici. Del resto si ritengono persone colte e ben educate. Amano parlare di letteratura. Lodano Bulgarin, Pushkin e Grech e parlano con disprezzo e con acuti frizzi di Orlov. Non perdono una sola conferenza pubblica, sia pure di computisteria o magari di economia forestale. A teatro, si rappresenti ciò che si vuole, troverete sempre uno di costoro, tranne forse quando si dà qualche farsa popolare che offenderebbe assai il loro gusto raffinato. A teatro, anzi, ci stanno in permanenza. Sono i tipi di maggior rendimento per le direzioni. Amano particolarmente in un dramma i bei versi, nonché evocare ad alta voce gli attori. Molti di loro, insegnando negli istituti della corona o preparando per gli istituti della corona, istituiscono alla fine un calessino e una coppia di cavalli. Allora il loro cerchio si allarga e vien loro fatto finalmente d'accasarsi con una figlia di mercante che sa strimpellare il piano, ha una dote di 100.000 o giù di lì in contanti e una caterva di parenti barbuti. Tuttavia, Un simile onore non lo raggiungono se prima non abbiano raggiunto perlomeno il grado di colonnello, già che le barbe russe, sebbene fra di loro alcune ancora tramandino sentor di cavolo, per nulla al mondo vorrebbero vedere una loro figlia maritata men che a un generale o tanto tanto a un colonnello. Tale la general fisionomia di questa specie di giovani. Ma il tenente Piragoff aveva in più una quantità di talenti che gli appartenevano in proprio. Declamava eccellentemente versi del Dmitri Donskoj e degli inconvenienti dell'ingegno. Possedeva la speciale arte di emettere dalla pipa il fumo ad anelli, con tanto successo da infilarne, che non è, magari 10 uno dopo l'altro. Sapeva raccontare con molta grazia l'aneddoto che una cosa è il cannone e un'altra il cannoniere. Sarebbe del resto ardua impresa enumerare tutti i talenti che la sorte aveva compartiti a Piragoff. Egli amava parlare d'attrici e di ballerine, ma tuttavia non con la libertà con cui si esprimono su tale argomento i giovani alfieri. Era molto soddisfatto del suo grado, al quale era stato di recente promosso, e sebbene talvolta a giacere sul divano dicesse «Oh, vanità, tutte le cose son vanità, son tenente, e con ciò non di meno in segreto», era assai lusingato della sua nuova dignità. In conversazione cercava spesso d'alludervi, come senza parere, e una volta che per la strada uno scrivano gli mancò di rispetto, egli lo fermò, senza indugio e in poche ma pepate parole gli dette ad intendere d'avere innanzi un tenente e non già un altro ufficiale qualunque. E tanto più eloquentemente si studiava di stabilir ciò in quanto proprio allora passavano di là due dame in vero assai graziose. Piragoff in generale mostrava una grande passione per tutto ciò che è eleganza e incoraggiava il pittore Piskaryov. Ciò del resto veniva forse dal fatto che desiderava molto vedere la propria marziale immagine immortalata in un ritratto. Ma si è detto abbastanza delle qualità di Piragoff. L'uomo è un tale essere sorprendente che non si possono mai enumerare a un tratto tutte le sue degnità e che più lo guardi, più particolarità ci scopri e la concia descrizione di esse sarebbe infinita. Piragoff continuava ad inseguire la sconosciuta di tempo in tempo rivolgendole qualche domanda a cui essa rispondeva seccamente, interrottamente e con suoni inarticolati. Per la cupa porta di Kazan uscirono sulla Mianskaya, la strada degli spacci di tabacco e delle botteghe al minuto, degli artigiani tedeschi e delle ninfe finniche. La biondina prese a correre più svelta e scomparve nel portone di una casa abbastanza sudicia. Piragoff dietro. Essa volò su per una scala buia e stretta ed entrò in una porta seguita anche qui arditamente da Piragoff, il quale si trovò in una grande stanza dalle pareti nere e dal soffitto affumicato. Un mucchio di viti di ferro, di utensili da magnano, di bricchi rilucenti e di bugie era sul tavolo. Il pavimento era cosparso di limatura di rame e di ferro. Piragoff riconobbe subito l'officina d'un artigiano. La sconosciuta scomparve per una seconda porta lateralmente. Il tenente parve esitare un momento, ma seguendo la regola dei russi decise d'andare avanti. Entrò così in una stanza del tutto diversa dalla prima, mobiliata assai confortevolmente, la quale rivelava che il padrone di casa era un tedesco. E fu colpito da uno spettacolo oltremodo strano.